24 mattino. Le 8 e 18 minuti, 349-238-6666, ben ritrovati a 24 mattino, parliamo un po' di economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Ciao Deborah, ben ritrovata. Sì, buongiorno, eccoci a ricominciare un'altra settimana insieme. Non con quel tono. No, ma non era particolarmente depresso. Bene, figurati. Parliamo di un tema che magari in Italia è meno noto. Microcredito. Quando si parla di microcredito si pensa magari a paesi meno ricchi anche economicamente. Esatto, e invece è un modello che si può applicare anche alle economie occidentali. Noi abbiamo letto in questi giorni questa notizia, abbiamo voluto indagare perché è un momento in cui, come piuttosto noto, il sistema bancario fa molta fatica a sostenere con il credito le imprese e quindi anche la ripresa economica, quindi tutto ciò che si muove intorno a questo senso appunto ci interessa approfondirlo. Cosa abbiamo letto? Che si è costituito in Italia il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito e alcuni grandi comuni, 4 al momento, sono Bologna, Torino, Venezia e Palermo, hanno dato la loro disponibilità a firmare accordi quadro per sostenere la lotta alla povertà e alle esclusione dai circuiti dei finanziamenti. Quindi ci siamo chiesti qual è la via italiana al microcredito, che è sicuramente una via molto lontana dal modello che è stato fondato da Muhammad Yunus, un economista, un banchiere bengalese che ha compiuto molti sforzi in questo campo e ha vinto anche un premio Nobel per la pace nel 2006. Buongiorno a Pier Emilio Gadda, giornalista, esperto di fondi etici e microcredito. Buongiorno a tutti. Pier Emilio, qual è il modello italiano del microcredito? Esiste una versione occidentale di questo sistema per sostenere, noi ovviamente lo definiamo proprio come il modello economico e finanziario che sostiene le popolazioni in povertà, ma qua non possiamo certamente avere un modello di questo tipo. No, diciamo che anche da noi abbiamo comunque un panorama piuttosto diversificato. Io distinguerei tendenzialmente due tipologie diverse, due modelli. Per quanto riguarda le tipologie è presto detto, abbiamo un microcredito di tipo assistenziale che si propone di sostenere le famiglie che per esempio sono in difficoltà con il pagamento della bolletta piuttosto che hanno delle rate arretrate dell'affitto da pagare, e abbiamo invece una forma di microcredito di tipo diciamo imprenditoriale che si ispira più apertamente al modello di Yunus, quindi della persona che è considerata l'inventore del microcredito. Quindi in questo secondo caso il microcredito si propone sostanzialmente di finanziare l'avvio di piccole attività imprenditoriali, sempre chiaramente focalizzandosi su un tipo di target particolare, un tipo di persone che sono normalmente escluse dal circuito tradizionale del credito perché non possono fornire le garanzie che sono normalmente chieste in banca a fronte di una richiesta di finanziamento. Quindi diciamo va subito sgombrato, scusami se ti interrompo, il campo da alcuni equivoci. Microcredito non significa affatto beneficenza, si tratta di veri e propri prestiti che vanno restituiti. Assolutamente, questo è anche il punto di forza forse di questa tipologia di finanziamento, che sta dimostrando una sua capacità di essere sostenibile, proprio perché, come dicevi giustamente tu, c'è un piano di ammortamento, ci sono dei tassi di interesse che anche in questo caso possono oscillare tra lo zero, diciamo. In questo caso ecco, non è proprio il tasso zero che viene propagandato da certe società finanziarie, in questo caso si tratta proprio di un tasso zero effettivo e che può arrivare anche al 10-11-12%. Perché? Perché come dicevo ci sono due modelli diversi. Un primo modello è quello prevalente e sostanzialmente vede la partnership tra associazioni di volontariato, le Caritas, normalmente un ente, tipicamente si tratta delle fondazioni bancarie, ma in altri casi abbiamo anche il contributo delle amministrazioni locali, e dicevo ecco un ente che mette a disposizione un fondo di garanzia. Quindi grazie al fondo di garanzia la banca erogante, la banca diciamo che eroga concretamente il finanziamento, ha le spalle coperte e non rischia, quindi può permettersi anche di fare dei finanziamenti che sono comunque naturalmente più rischiosi rispetto a un normale credito. Pier Emilio, andiamo allora direttamente all'esperienza bancaria. Ringrazio e saluto, auguro il buongiorno ad Alessandro Celoni, responsabile area centro di Banca Etica, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Dottor Celoni, che interventi si finanziano, ovviamente tenendo in considerazione il modello di cui stiamo parlando, in momenti di crisi come questo? Vabbè, allora in questo momento ci sono due domande tipiche. La prima è, come già stato accennato, è quella che noi chiamiamo di tipo socio-assistenziale, ossia gli aiuti alle famiglie. Questi aiuti non sono a pioggia, sono normalmente molto mirati, spesso a famiglie, diciamo, di immigrati, famiglie italiane, eccetera, che trovano difficoltà sia a pagare le bollette, come è stato detto, ma più spesso al semplice accesso al mercato della casa, perché già sono in difficoltà a versare le prime 3 rate dell'affitto per la cauzione. Poi magari l'affitto lo pagano regolarmente. L'altra esperienza sono esperienze di microimpresa, aiuti a piccole imprese nascenti o che sono magari nate negli ultimi 2 anni. Per esempio, per fare un esempio proprio concreto esistente, la Regione Toscana da un paio di anni ha istituito uno sportello regionale per il microcredito che fornisce tutta l'attività di assistenza a chi vuole intraprendere una nuova attività o magari ha intrapreso nei 24 mesi precedenti una nuova attività ma ha bisogno di finanziamenti che in quel momento non riesce a ottenere attraverso il normale accesso al mercato. Ecco, questo siccome è un momento che è particolarmente caratterizzato proprio da questo fenomeno che lei ha accennato, state notando questo travaso, avete maggior richiesta proprio magari dall'imprenditore che ha il rubinetto tradizionale chiuso in questo momento, dal canale bancario tradizionale? Avete più richieste? In questo momento stanno iniziando ora ad arrivare più richieste, cioè in realtà il percorso, diciamo, di contrazione del credito è in corso da un po' di tempo e stanno iniziando ora ad arrivare più richieste. Soprattutto si sta cominciando a notare un fatto, che ci sono persone che stanno uscendo dal mercato del lavoro e quindi si stanno riciclando come autoimprenditori, come piccoli imprenditori. Come si fa a fare la richiesta di finanziamento presso di voi, Celoni? Dunque, allora, tenendo presente che il microcredito per l'appunto normalmente viene attuato tramite convenzioni, perché la banca etica in questo caso ha poche filiali sparse su tutto il territorio nazionale, quindi si appoggia a tutte quelle associazioni, organizzazioni che 10 anni fa hanno contribuito alla costituzione della banca, quindi la Caritas, le varie associazioni locali, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche. Allora, normalmente ci si può rivolgere ad una delle nostre filiali o a uno dei nostri promotori che sono sparsi sul territorio. Ad oggi sono 12 filiali e 30 promotori, più o meno sparsi su tutto il territorio nazionale, che a quel punto lì daranno le indicazioni per o accedere direttamente al finanziamento tramite banca etica oppure passare prima tramite uno di questi enti che stanno facendo quest'opera di promozione, come lo sportello regionale del microcredito della Regione Toscana oppure il progetto microcredito della Regione Lazio oppure vari fondi esistenti in Calabria, Basilicata, provincia di Foggia, eccetera, comune di Torino, eccetera. Tenendo conto di un aspetto, che Banca Etica ha cercato di per sé di incrementare la possibilità di accesso al microcredito, istituendo un proprio fondo nazionale che viene alimentato da tutti i sottoscrittori dei propri fondi etici, i quali praticamente versano su questo fondo in microcredito volontariamente chi lo vuole, naturalmente, una cifra pari all'1 per 1000 della sottoscrizione di fondo. Benissimo, questo quindi è un modello abbastanza particolare. Per concludere tornerei a Pier Emilio Gadda, questo momento di crisi piuttosto evidente. Pier Emilio, secondo te questo anno potrà contribuire ad un ulteriore sviluppo di questo ambito del credito? Quali sono le prospettive che vedi? Io credo di sì, proprio perché come dicevo prima è un modello che ha dimostrato di essere sostenibile. Ci sono alcune realtà che tra l'altro non si appoggiano neppure ad un fondo di garanzia, che stanno quindi erogando direttamente finanziamenti a persone non bancabili, chiaramente attraverso un processo di valutazione che è molto attento, molto difficile anche. Quindi queste persone normalmente hanno necessità di essere accompagnate lungo tutta la durata del finanziamento, quindi dalla definizione del business plan fino poi al pagamento delle rate. Io credo che sia un modello che funziona e che debba essere utilizzato in misura crescente, soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo attraversando. Esatto, anche se in realtà il nostro auspicio è che venga forse utilizzato in maniera non tanto crescente, perché questo forse significherebbe l'affrancamento dalla povertà da parte di molte persone, anche in questo caso forse da parte delle imprese che vivono un momento difficile. Comunque grazie a Pier Emilio Gadda. Trovate le sue inchieste su Osservatorio Finanziario e grazie anche ad Alessandro Celoni di Banca Etica. Alessandro, io ho concluso. Però ci devi dire cosa fai tra poco. Sì, ma lo scordo tutti i giorni. Oggi ritorniamo sul secondo pacchetto anticrisi varato dal governo venerdì scorso. Torniamo finalmente a spiegare come funzioneranno questi incentivi per l'auto. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan per i vostri messaggi 349-238-6666. Diamo uno sguardo alle ultime notizie, la vicenda Eluana Englaro. Per il ministro Sacconi, la clinica dove è ricoverata la ragazza non è idonea. Anche la regione Friuli ha mandato ispettori e sta valutando lo stop del protocollo. Oggi intanto approda al Senato il disegno di legge predisposto dal governo. In Giappone la casa automobilistica Nissan ha annunciato stamattina un maxi piano di ristrutturazione per fronteggiare la crisi, previsto il taglio di 20.000 posti di lavoro. Torniamo in Italia, ancora notizie di stupri. Una 14enne è stata violentata a turno da un gruppo di compagni di scuola. È successo nel Bresciano. Fermati 4 ragazzi, almeno altri 5 sarebbero coinvolti, ma non sono punibili perché minori di 14 anni. Un'altra violenza si è registrata a Milano ai danni di una 19enne, una terza nel Frusinate ai danni di una 15enne. Chiudiamo con il calcio. La Juventus vince a Catania, torna seconda a meno 7 dalla capolista Inter, quarta la Fiorentina che batte la Lazio, mentre ieri il posticipo Palermo-Napoli è finito 2-1. Domenica ci sarà il derby Inter-Milan, e tra i rossoneri non ci sarà Kakà, infortunatosi sabato scorso. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore dedicato al caso di Eluana Englaro. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. L'asterisco di oggi è un po' particolare, non è un'opinione, solo un pensiero, un moto di solidarietà rivolto al padre di Eluana. Questa vicenda così dolorosa lacera le coscienze, pochi credo abbiano delle autentiche certezze, anche tra coloro che hanno il dono della fede. E il dubbio se quella di Eluana possa ancora chiamarsi vita, per vari anche chi pensa, ed io tra questi, che la vita vada salvaguardata fino all'ultimo estremo ragionevole tentativo. Ma chi più del padre ha avuto e ha a cuore la vita di una figlia che ha accudito amorevolmente per 17 lunghi anni di malattia? Chi più di lui? Perché dubitare della parola di quel padre? Chi più di lui può interpretare la volontà di Eluana? E perché trattarlo alla stregua di un testimone insincero o addirittura di un omicida? Nella sofferenza di quel padre c'è anche la sofferenza della figlia. Eluana è diventato ormai un simbolo. E dovremmo domandarci se per molti che, da una parte e dall'altra, gridano il suo nome, sia ancora una persona. Per suo padre Beppino certamente lo è, e lo sarà sempre, perché lui, a differenza degli altri, non la dimenticherà. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole 24 Ore, che troveremo ovviamente domattina. Le 8:35 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Una lettera che le mamme della scuola elementare Carlo Pisacane di Roma hanno scritto al ministro Gelmini e ai cari parlamentari. Inizia così questa lettera. Nessuna tra noi mamme della scuola Carlo Pisacane di Roma iscriverà i propri figli entro il 28 febbraio a questa scuola. Invitiamo tutte le mamme di tutte le scuole italiane che si trovano nelle nostre stesse condizioni a fare altrettanto. I motivi sono drammatici nella loro semplicità. I nostri figli non possono essere diversi dai tanti bambini italiani che hanno la fortuna di frequentare scuole dove regna l'armonia, si compiono normali percorsi di apprendimento e socializzazione. I nostri figli hanno diritto a fare vedere un presepe con il bambino Gesù, la Madonnina, San Giuseppe, mentre il villaggio globale organizzato lo scorso anno aveva moschee, minareti, donne in burca mischiate ai pastori e ai re magi. I nostri figli hanno diritto a vivere la loro italianità con naturalezza. Ma se una scuola arriva a contenere 15 bambini italiani su 180 e classi come l'attuale prima elementare con un solo bambino italiano su 23, nessuna integrazione è possibile. Per questo, si conclude la lettera, abbiamo deciso di cambiare istituto e vi lasceremo la prima scuola pubblica d'Italia composta solo da stranieri. Io voglio salutare Flora Arcangeli, buongiorno. Buongiorno. Che preside il comitato scuola Carlo Pisacane a Roma. Cos'è stata, una provocazione? So che ci sono stati incontri, oppure volete andare avanti su questa strada? No, noi andremo sicuramente avanti fino a che non avremo la certezza matematica che anche noi avremo una scuola normale, quindi che anche i nostri figli potranno andare in una scuola normale. Aspetteremo il nostro termine ultimo, ecco, è il 28 di febbraio, ma anche qualche giorno prima, perché appunto dovremmo avere il tempo di iscrivere i nostri figli in altre strutture, perché certamente non ritorneremo più in una situazione del genere. Ci siamo stati per troppi anni e ci stiamo ormai da 8 anni, e alcune di noi anche da 9, quindi insomma ormai siamo arrivati proprio al traguardo finale, perché certamente nessuno si aspettava che arrivassimo a questo punto, tranne noi, che noi sapevamo invece benissimo che saremmo arrivati a questo punto, perché anche comunque gli anni passati, per esempio anche l'anno scorso, è stata formata una prima con 20 bambini stranieri e soltanto 2 italiani. Senta, quindi, siccome io so e voglio escludere parole come razzismo, cos'è che vi non vi piace, insomma, di questa situazione? Cosa vi dà fastidio della troppa presenza di stranieri? Guardi, al di là comunque di una, al di là delle nostre tradizioni, della nostra cultura, che comunque viene di anno in anno sempre più accantonata, come lei ha ricordato il presepe, o comunque ci sono stati diversi episodi più o meno eclatanti, la cosa che comunque sta più a cuore a noi mamme è la didattica, quindi è comunque la didattica che viene offerta all'interno di questa scuola ai nostri figli. E i nostri, essendoci così tanti bambini stranieri che hanno difficoltà linguistiche, questi richiedono molto più attenzione alle maestre e molto più tempo, come è giusto che sia, rispetto agli altri bambini. Quindi tutto ciò determina un rallentamento della didattica per il resto della classe, che poi in realtà, insomma, molto minoritaria, mi sembra. Sì, di infatti, sono proprio più di 2 elementi. Senta, rimanga con noi, io voglio andare qualche centinaio di chilometri più in su, voglio salutare il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Buongiorno sindaco. Buongiorno del Partito Democratico. È salito agli onori della cronaca qualche giorno fa perché, con tanto anche annesse polemiche, il titolo sostanzialmente dei giornali era questo: non avremo mai più di 3 stranieri ogni 10 italiani nelle nostre scuole. Questo come decisione, insomma, il Comune di Vicenza. Lei come vede la protesta di queste mamme della scuola Pisacane? Il caso di una prima elementare, un italiano in mezzo a tutti stranieri. In effetti serve sempre dell'equilibrio, perché i bambini devono vivere fin dalla prima classe delle primarie in una logica di rispetto, di affetto verso gli altri bambini, di uguaglianza. Noi diremmo da grandi una parola nella cultura della mondialità, però con equilibrio. Quando si verifica che una scuola, per una serie di ragioni, o per la concentrazione di residenti stranieri in quell'ambito, o perché gli stranieri iscrivono i bimbi lì perché si sentono meglio accolti lì che altrove, vuol dire che in qualche modo si stanno creando nel nostro paese, nelle nostre comunità, nei nostri quartieri, delle scuole differenziate, delle scuole diverse, delle scuole per stranieri, a maggioranza straniera rispetto alle scuole a maggioranza italiana, e questo non va bene. Per il grande progetto della integrazione, su cui dobbiamo, come dire, puntare per la società di domani, abbiamo bisogno che i bambini stiano insieme, e per far questo ci vuole equilibrio. Ecco un po' la nostra logica, che non è una logica di esclusione, ma è una logica legata ad un progetto educativo. Eppure qualcuno ha detto ci se lo saremmo aspettati da un sindaco della Lega, per esempio, non del Partito Democratico. Adesso la Lega si aveva avanzato ipotesi simili nel passato, ma partiva da un concetto quasi ideologico: gli italiani con gli italiani, gli stranieri, ma che cosa pensano di venire a... Non è questo il filo che ha mosso me. Il filo che ha mosso me è, se posso dire, il buon senso, è la volontà di tutelare i bambini, tutti i bambini. Quando uno dice dov'è che devono andare a scuola, dove si devono iscrivere nella prima classe delle primarie un bambino, dove si deve iscrivere? Si deve iscrivere nella scuola del suo quartiere, e la scuola del suo quartiere lo deve accettare, certo lo deve accettare. Perché? Perché la scuola è un elemento fondamentale che crea comunità, e se lì c'è una concentrazione fortissima è possibile fare qualche spostamento perché comunque il bambino si ritrovi si ritrovi nella classe con, diciamo, con la normalità della società. E chi si deve spostare? Chi è maggioritario? Chi è troppo numeroso e quindi va a togliere, guardi, questo squilibrio? Fortunatamente, qui allora è qui che poi i territori non sono tutti uguali, nella mia città noi abbiamo, in previsione del prossimo anno scolastico, un bambino su quattro che si iscrive alla scuola primaria. Straniero. Un bambino su quattro straniero. Allora, quello che stava succedendo in città è che alcune scuole non accettavano gli stranieri e quindi erano gli stranieri che si spostavano di quartiere. Non so se mi sto spiegando. Sì. Adesso invece, con la logica di dire no, con un assoluto accordo tra il comune e le autorità scolastiche, il bambino, tra virgolette, deve essere accolto, il bambino straniero. Io penso che più o meno nella mia città non si deve spostare nessuno. E questo cerchiamo di raggiungere... Nell'ideale. Io, sindaco, intanto la ringrazio. Signora Arcangeli, sì. Voi andate avanti. Vi sentite, vi faccio questa domanda brutale per quel che riguarda i vostri figli quando li portate a scuola, in quasi in terra straniera, non in Italia, però è il frutto, insomma, di quel tessuto sociale, di quel quartiere in cui vivete, d'altronde. Ma comunque il quartiere sì, sicuramente si è trasformato negli ultimi anni e comunque è responsabile anche la scuola, perché proprio la scuola ha iniziato questa trasformazione, perché in questa scuola venivano bambini da quartieri satelliti al nostro e piano piano si sì. sono poi poi dopo diciamo si sono anche stabilizzati qua, quindi comunque è stato sempre un richiamo questo dall'inizio, di quando hanno cambiato le dirigenze, quando sono arrivate queste direttrici, queste coordinatrici all'interno della scuola, è cambiata la scuola, perché gli italiani comunque saranno pochi sicuramente, ma ci sono e affollano tutte le altre scuole intorno alla nostra. E comunque, insomma, quindi... in qualche modo dovrà finire, o si metteranno dei tetti o si sposteranno, oppure voi davvero non iscriverete i bambini a scuola. Cercheremo un'altra scuola per i nostri figli. Io la ringrazio di essere stata con noi, Flora Arcangeli, presidente del comitato scuole di Carlo Pisacane a Roma, un tema, insomma, che rimarrà fino a fine febbraio, quando si iscrivono appunto i bambini nelle scuole. Le 8:47 minuti, i costi della politica nella regione Abruzzo, ci concentriamo qui, ma insomma forse capiterà anche altrove. Allora, in Abruzzo un consigliere regionale prende, ho letto, un'indennità mensile di 7.200 euro, poi non so se ci sono delle aggiunte. Sicuramente c'è un'aggiunta anche per il capogruppo del gruppo consigliare, che prende di più. Il capogruppo di un gruppo consigliare prende 1.670 euro in più, oltre ad avere diritto, ho letto anche questo, a due collaboratori esterni e un dipendente regionale distaccato. Insomma, niente male, ma vabbè, magari c'è un gruppo di consiglieri numeroso e quindi è giusto da coordinare, il capogruppo ha bisogno di persone, eccetera. In Abruzzo però c'è un fenomeno particolare. Possiamo definirlo il monogruppo, o gruppi formati da un solo consigliere sostanzialmente. Comunisti Italiani, capogruppo Antonio Saia, componenti 1. Verdi, capogruppo Walter Caporale, componenti 1. Movimento per l'Autonomia Abruzzo, capogruppo Giorgio De Matteis, componenti 1. Rialzati Abruzzo, capogruppo Antonio Prospero, componenti 1. Rifondazione Comunista, capogruppo Maurizio Acerbo, componenti 1. Insomma, i gruppi formati da uno, il monogruppo, che suona un po' strano. Saluto Maurizio Acerbo, buongiorno. Consigliere regionale, ex parlamentare, uno che ha fatto battaglie per i costi della politica. Adesso vederla in un monogruppo, un gruppo formato da uno, insomma, un po' mi incuriosisce, Acerbo. Come mai i gruppi formati da uno con tanto di aggiunte di 1.670 euro al mese? Beh, questo quadro lo abbiamo ereditato. Per quanto mi riguarda, come lei saprà, io credo di essere stato l'unico parlamentare a presentare insieme ad altri mio partito la proposta di legge per dimezzare l'indennità dei parlamentari italiani. È per quello che ci stupiamo, voglio dire. No, io la presenterò, o meglio l'abbiamo già presentata, chi mi ha preceduto per il mio partito, anche in consiglio regionale, perché il vero scandalo non è il monogruppo, che a mio parere ha senso se espressione del voto elettorale, e il vero scandalo è il livello delle indennità, a cui bisogna sommare tutto un coacervo di altre cose, dai rimborsi chilometrici e via discorrendo. Si arriva a quanto? Faccia autodenuncia. Non lo sa ancora. Rischierei di non fare bene il conto dei benefit. Poi consideri che non c'è solo la questione del capogruppo, c'è la questione che si va che cresce l'indennità, e cioè la percentuale calcolata sull'indennità dei parlamentari, anche se fa il presidente di commissione, il vicepresidente di commissione, sì, sì. Se fai parte dell'ufficio di presidenza, anzi se sei consigliere segretario dell'ufficio di presidenza, ma scattano tutte delle cose. Però certo che questa del mono, cioè il gruppo formato da uno se non altro linguisticamente stona un po', insomma è un po' qualcosa che anche solo dirla fa un po' sorridere, il gruppo formato da uno. Ma rimanga con noi Acerbi, io voglio salutare anche Pio Rapagnà. Buongiorno. È stato parlamentare nel 92, ora è un po', come possiamo dirlo, un fustigatore dei politici che non l'amano tanto in Abruzzo, possiamo dire così. Lei promuove comitati per cercare di abbattere i costi della politica. Ha sentito questa dei monogruppo? Sì, che lei la ben verità conosce. In Abruzzo sono 3 anni che cerchiamo di raccogliere le firme per fare 5 referendum e una proposta di legge di iniziativa popolare, proprio per dimezzare i costi generali rispetto al Parlamento, ma anche per abolire e abrogare tutte queste norme che parlano di gruppi e monogruppi, ma anche gruppi formati da due. Sì, c'è anche quello, però almeno, almeno in due, insomma. Di cui uno fa il capogruppo e l'altro fa il segretario dell'ufficio di presidenza. Ah, quindi scatta un'altra indennità anche lì, no? Certo, perché le indennità non è solo quegli 8.082. Capisce? 8.000, perché prima erano 7.000, mo con l'adeguamento nazionale che non è stato bloccato questa volta, le quote ritornano a come io prima. Io sono stato scarso, sono stato per difetto io a citarle. Le aggiunte per un vicepresidente di commissione, un segretario di commissione, un presidente di gruppo, un vicepresidente del consiglio regionale, un segretario, sono aggiunte che vanno dai 2.400 euro oltre alle 8.000 o 1.800, 621 per i più piccoli. Vabbè, in passato però, il monogruppo erano di più, credo, si era arrivati in monogruppo in passato. Erano 19. 19 gruppi da uno. No, 19 gruppi in tutto. Ah, perfetto. Ecco, quindi adesso i monogruppi sono semplicemente 5. Beh, su 9 gruppi, 5 sono monogruppi. Monogruppi, però c'è il Rialzati Abruzzo che sta decidendo di adeguarsi al polo della libertà. Ah, ho capito. Però c'è un trucco, dottore, il trucco è questo, che se un gruppo formato da, anche quello da uno va bene, lo sappiamo, ma chi è formato per esempio da un gruppo da 20 consiglieri, se nei 20 sono presenti consiglieri eletti in liste presentate nella regione in tutte e 4 le circoscrizioni, su ogni raggruppamento di questo genere, che non era col titolo del Popolo delle Libertà, per esempio, percepisce indennità aggiuntive per ciascuno di questi gruppi che si è presentato separatamente. Anche insomma, se c'è sempre il trucco, dice Acerbo, voglio tornare da lei. Aspetti Rapagnà, Acerbo, ma almeno questa indennità del monogruppo che facciamo? Vogliamo togliere? Perché non è neanche rinunciabile, credo. Lei non è rinunciabile, cioè per quanto riguarda l'individuo è rinunciabile, nel senso che io non la percepisco, volevo chiarire perché si sa poco, che in quanto eletto di Rifondazione Comunista dal partito, io percepirò 2.200 euro al mese, il resto viene tutto dato al partito e a vari movimenti, questo per chiarire, quindi non ho neanche un interesse personale. Dice, io ritengo scandaloso la questione a monte, un primario ospedaliero, per non parlare dell'operaio, un docente universitario ordinario, non arrivano neanche lontano, quindi parlo di fasce alte delle retribuzioni, non arrivano neanche lontanamente a quello che prende un consigliere regionale, certo, un presidente di commissione. Questo è lo scandalo. Per poi quanto riguarda, mi fa parlare, dica. Perché siccome è una vita che faccio battaglia contro la corruzione, però a 30 secondi, Acerbo, dica, esatto, che devo chiudere. E le faccio notare che invece i monogruppi, se nascono dal momento elettorale, sono un fatto di democrazia. Io sono di Rifondazione Comunista, sono stato eletto per rappresentare Rifondazione Comunista e quindi non vedo cosa ci sia di male al fatto che c'è il gruppo di Rifondazione Comunista. Questo vale per i Verdi e varrebbe per qualsiasi altra forza politica, perché in Italia non esiste solo il Partito Democratico e il PDL. Poi spero che la prossima volta ne saremo in tre. Io ne sarò contentissimo. Va bene, io ringrazio Acerbo, ringrazio anche Pio Rapagnà, torneremo su questo tema perché è molto caldo, è una promessa. Vedo che c'è gente che ci scrive: io guadagno 980 euro, mi sta arrivando anche un bimbo a sentire queste cifre, effettivamente è uno scandalo. Allora, ci torneremo sui costi della politica perché il tema è caldo, è stato abbandonato da molti, non da noi. Grazie Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Ora ci parliamo con l'elefante dopo GR24, si parla del DDL sicurezza con le annesse polemiche, c'è anche il ministro degli interni Roberto Maroni. 800 24 0024 per intervenire, noi ci troviamo domattina.